Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Federico, un tempo si chiamava il pastone. Quella sbobbona, diciamocelo, che si dava mucche e maiali, e per i maiali era proprio spazza, eh? Ma adesso non è più così. Esistono delle sofisticatissime macchine che preparano la ricetta giusta, e di questo parliamo oggi a Food Lab. Federico, oggi mi trovo in provincia di Lodi, alla Cascina Baroncina. È una delle aziende agricole più produttive d'Italia, ha ricevuto numerosi premi. È un'azienda sperimentale anche, un centro di ricerca del Ministero per l'Agricoltura. Adesso sono qui in compagnia di Andrea Franchi, che è direttore commerciale della Sgariboldi, perché voi non la potete vedere, ma di fronte a me c'è un'enorme macchina miscelatrice. Ora con Andrea riusciremo a capire che tipo di macchina è, che cosa fa e quanta tecnologia c'è dentro. Ma forse prima, Andrea, dobbiamo introdurre il tema. Parliamo di precision feeding, cioè cibo di precisione. Parliamo di foraggio per gli animali. Allora, ecco, sì. Diciamo che Sgariboldi è un'azienda d'eccellenza italiana che da 40 anni costruisce e affina macchine meccaniche, naturalmente, dove la meccanica viene utilizzata per preparare e lavorare i foraggi in modo tale da poterli distribuire agli animali in modo uniforme e preciso. Diciamo uniforme per quanto riguarda il trattamento del foraggio, che deve essere miscelato in proporzioni omogenee dall'inizio alla fine della distribuzione e dall'inizio alla fine del consumo nell'arco delle 24 ore. Diciamo, per semplificare, queste mucche molto produttive devono mangiare proporzionalmente durante l'arco di tutte le 24 ore, diciamo, proteina, fibra ed energia in modo proporzionale e in modo meccanico tutta la giornata, diciamo in modo rappresentativo, in modo preciso, ecco. E gli allevatori ormai da anni hanno fatto una scelta, cioè quella di fare un unico composto, un piatto unico, potremmo definirlo così se vogliamo usare un parallelismo così umano. Diciamo che ormai tutti gli allevatori che vogliono produrre e massificare nel rispetto del benessere animale alla produzione di latte, questa tecnologia ormai in Italia è presente da quando sono nate le prime sperimentazioni, diciamo negli anni 70. Ecco, allora veniamo alla tecnologia della macchina. Questa macchina è diciamo colei che prepara in qualche modo gli ingredienti per questo piatto unico. Allora, che cosa contiene questo piatto unico e come poi vengono miscelati e preparati questi ingredienti? Diciamo che un operatore sale a bordo di questa macchina, trova il cruscotto di comando della macchina stessa, che è composto, va bene, dal controllo di quello che è il sistema meccanico, cioè le spie elettroniche del motore, le spie elettriche, e un sistema di pesatura. Un sistema di pesatura perché? Perché l'alimento che viene ad essere prelevato dai vari punti di stoccaggio dell'azienda stessa, cioè foraggio, fieni insilati, mangime, eccetera, eccetera, viene pesato dal sistema elettronico a bordo della macchina. Quindi l'operatore deve solo schiacciare un pulsante, dare l'input di inizio di carico, ad esempio, delle farine di mais. Quando queste vanno a portarsi a peso effettivo, la macchina stessa ferma l'introduzione di questo alimento e passa all'alimento successivo. Tutto questo ovviamente in maniera automatica, perché la macchina è dotata di tecnologie e sensori che possano in qualche modo in maniera molto rapida fare delle pesature costanti, e questo è quello che riguarda la quantità. Però c'è da dire tanto anche sulla qualità, cioè la macchina è dotata di sistemi intelligenti, di un vero e proprio software per decidere anche quale e come deve essere l'ingrediente da miscelare. Diciamo che il sistema di pesatura può essere completato da sensori che vanno a rilevare quella che è l'umidità stessa del foraggio, in modo tale da poter in tempo immediato ricalcolare il peso da portare all'interno della macchina stessa, cioè perché praticamente la razione, essendo tarata su quella che è il volume di sostanza secca che un animale deve ingerire ed è distribuita una volta al giorno, la sostanza secca deve essere sempre quella a condizioni variabili di umidità e di sostanza secca dell'alimento stesso. Cioè, se oggi piove e il prodotto si bagna, ne carico di più; se domani è molto secco, ne carico di meno, e la macchina lo fa in automatico. L'altra cosa da aggiungere è che appunto l'allevatore o il nutrizionista che si occupa della gestione di questa macchina macchina ha la possibilità di ricevere anche tutto in un software nel computer, pertanto l'allevatore ha proprio un database di quelle che sono i foraggiamenti tutti i giorni nell'arco di tutto l'anno. Diciamo che il database in accumulo può gestire tantissimi dati, quindi oggi noi in Italia parliamo anche di tracciabilità del prodotto stesso, quindi il software di carico e scarico a bordo di queste macchine può tenere in memoria quelli che sono gli alimenti calcolati nei 300 giorni dell'anno, quindi solo questo ci può portare ad avere sicuramente una filiera tracciata, una filiera no, e un alimento tracciato con una qualità tracciata. Quanto è importante per un allevatore avere questo tipo di parametri? Sapere esattamente le proprie vacche cosa mangiano e in che quantità? È importantissimo perché è un feedback di ritorno che soprattutto ti fa guardare a quella che è la produzione stessa giornaliera del latte che è in uscita. Le variazioni di questa devono corrispondere a variazioni di alimento e quindi lui sa in quel momento dove c'è stato un calo di produzione cosa possono aver ingerito i suoi animali stessi. C'è ovviamente una correlazione che non ci sfugge nella produttività appunto delle vacche da latte con quello che è il foraggio e quello che mangiano. Ecco, diciamo di sì, diciamo che oltre a questo controllo è importante che la macchina che prepara questo alimento debba prepararlo in modo costante, meccanico e di omogeneità costante nei 365 giorni all'anno. Perché? Perché le vacche stesse sono più, io dico sempre che sono più controllate dell'essere umano, perché non devono ingrassare più di quello che è consentito dall'alimentarista stesso, ma perché un animale che sta bene e non ha grasso produce molto latte, produce. Grazie Andrea Fanchi, davvero buon lavoro. Grazie e buon lavoro a voi. Federico, anche per le mucche un praticissimo piatto unico, un po' come facciamo noi umani. Ma qui stiamo arrivando al menù, con loro che scelgono. Ah beh, certo. Per oggi è tutto, chissà, magari del menù lo racconteremo domani. Qui a Foodlab.